8. Ascolta e controlla. 1. Scusi, prego. 2. Prendi un caffè con me? Con piacere. 3. Disturbo? No, dimmi pure. 4. Mangi qualcosa con me? No, sono a dieta. 5. Gratis significa gratuito, senza pagare. 6. Ciao, a dopo. A più tardi. 7. Vieni con noi stasera? No, sono stanca, resto a casa. 8. Lavori o studi? Ancora studio.